legati da ideologie anarchiche e anticapitaliste, che si organizzano tra di loro per portare avanti un'azione di protesta violenta o comunque particolarmente attiva. La loro caratteristica distintiva, da cui il nome che tradotto significa blocco nero, è quello di indossare vestiti e maschere nere. Tale strategia ha lo scopo di far apparire i manifestanti una massa compatta, questo per apparire numericamente superiori e per attirare la solidarietà di altri componenti all'interno dei cortei. Maschere e caschi hanno la funzione di proteggere i membri e di impedirne l'identificazione da parte delle autorità. I soggetti che intraprendono azioni come Black Bloc non si rifanno ad un'unica ideologia o ad un'unica organizzazione. Questo tipo di protesta deriva infatti da un movimento d'opinione tendenzialmente anarchico, individualista e pregato, i cui argomenti sono piuttosto singolari e personali, e le cui geometrie e convergenze possono cambiare radicalmente. Vi è una credenza erronea fra i mezzi di informazione tradizionale, ovvero che il Black Bloc sia un'organizzazione internazionale di un certo tipo, quando in realtà è soltanto una tattica usata da un sottoinsieme di dimostranti, tant'è che ci possono essere diversi blocchi neri all'interno di un corteo, con diversi obiettivi e diverse tattiche. La storia colloca la nascita del Black Bloc a Seattle in concomitanza con la nascita del movimento No Global, e questa errata quanto anomala informazione diffusa tra i più è stata spesso portatrice di confusione e quindi di guai. In realtà il Black Bloc non è nato a Seattle. I seguaci americani si sono ispirati agli autonomi tedeschi che mettevano in atto questa tattica negli anni 80. Lo stesso termine Black Bloc è stato coniato dalla polizia tedesca. I rapporti del SISD, nel definire gli estremisti più pericolosi, indicava gli anarchici che vi si riconoscevano come blocco nero. Poi, per analogia, estendeva i colori anche alle altre componenti del corteo: rosa per pacifisti ambientalisti, gialli per tutte bianche e quei centri sociali dell'area moderata, blu per quei centri sociali particolarmente arrabbiati. Ma a guardare a posteriori potremmo ben dire che i morti a Genova hanno sofferto di daltonismo. Questa montagna ce l'ho. Casco ce l'ho, felpa ce l'ho, occhialetti, guanti ce l'ho. Mentre controllavo di avere tutto, ho fatto attenzione che nessuno nel vagone mi vedesse. Il treno aveva volontariamente 3 ore di ritardo, stretto a me lo zaino come se fosse la cosa più preziosa in mio possesso. Come fa un bambino col suo peluche, come fa un dormiente col suo cuscino. E ripassavo. Parola d'ordine la so. Provavo a concentrarmi, ma nel vagone con me c'erano dei ragazzi che non hanno fatto altro che parlare, credo che facessero parte di qualche associazione cattolica. Hanno pure fatto un sacco di domande. No, non faccio parte di nessun gruppo. Ho un appuntamento con degli amici. Sviavo il discorso, mi estraniavo e mi concentravo e mi rilassavo e ripassavo. Luogo dell'azione, piazzale Kennedy. Io provavo a concentrarmi, ma non ce la facevo, l'adrenalina dei ragazzi che erano con me in treno mi disturbava, anzi mi faceva anche un po' ridere, però io lo stesso mi allontanavo, mi estraniavo, mi concentravo, mi rilassavo e ripassavo. Parola d'ordine lo so, luogo dell'azione lo so, orario, appuntamento lo so. In stazione c'erano degli sbirri lì a controllarci e decidere se e come potevamo entrare a Genova. Figurarsi, a me è bastato aiutare i ragazzi che erano con me in treno. C'era uno di loro che credo fosse un prete che parlava con gli sbirri per tutti. Erano circa 50 gli sbirri, altrettanti noi, cioè loro. A me è bastato aiutarli a scendere striscioni, bandiere colorate, aiutarli a cantare i loro slogan per vedermi restituire un sorriso come a dire: dai, sei dei nostri, bleh! Mentre restituivo sorrisi a sorrisi, eravamo passati, eravamo a Genova.

sono state create immense per l'ospedale, e quindi essere stati così tanti presi e portati da pubblica sicurezza da qualche parte. Sembrava che avessero sentito l'odore del sangue, come dire, era una cosa strana il modo in cui si comportavano, cioè erano eccitati da questo fatto. E poi durante la notte hanno continuato a festeggiare, a raccontare, a, non so, vennero condotti a Bolzaneto. Loro cantavano e noi suonavamo. E più loro cantavano, più noi gliene suonavamo. Finché a un certo punto non ci misimo a cantare pure noi. E allora fu una gran festa, l'ultima, la più solenne. Bolzaneto, torturato numero uno, maschio, 28 anni, italiano, percosso in cella con calci e pugni allo stomaco, percosso al passaggio in corridoio con schiaffi, numerosi schiaffetti, ingiurato dai militari con ritornello 1, 2, 3, chi lo conosce, e con canzonetti gloriose del bellissimo periodo fascista. Vorrete che si schiava tanti schiavi. Bolzaneto, 25 anni, italiana, giurata con frasi del tipo comunista di merda, puttana, secca. Alla richiesta di andare in bagno, di cambiare l'assorbente, le viene gettata della carta pallottolata per terra, presa a calci, veniva stretta a sostituirlo in cella alla vista di altre gente anche di sesso maschile. Il riferimento alla morte di Carlo Giuliani. Bolzaneto, tornato numero 61, maschio, 23 anni, italiano, costretto a spogliarsi e mancare un pelo di tetti, a fare delle gira volte su se stesso e ad ogni capitolo farci a tutte le parti. Che la tappa non ritmo parete nelle parti del corpo, costretta a sfogliarsi alla vista dei piercing, questi ne vengono strappati. Bolzaneto, ultima catturata, numero 96, donna 38 anni, italiana, costretta a firmare per quali piante di fronte al mondo dei propri familiari, minacciata che non avrebbe più forza, vieni, dai, avanti, dai, dai, tu, dai, fermate, qui sotto. Thank you.

Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Giuseppe Provinzano. A presto! Grazie, ciao! Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Ferdinando Ceriani, regista dello spettacolo Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, a Roma, Teatro Arcobaleno, dal 29 al 31 ottobre 2021. Ben trovato! Grazie, grazie Federico, grazie mille dell'ospitalità, sempre molto con piacere sono qui con voi. È un po' che non ci si sentiva, sì. Raccontaci un po' di questa trasposizione. Memorie di Adriano è lo spettacolo cult un po' di Maurizio Scaparro, che debuttò nell'89 a Villa Adriana con Giorgio Albertazzi. Io dal 2002 ho la fortuna di lavorare a tutte le diverse, ai diversi riallestimenti che sono stati fatti in questi anni, e nel 2019 c'era l'occasione di rimettere in scena al Teatro Olimpico di Vicenza con una grande novità, cioè con la presenza di Pino Micole. Maurizio mi ha detto se volevo occuparmi di questo riallestimento, naturalmente partendo dalla sua regia, perché lo spettacolo, ricordiamo, è sempre di regia di Maurizio Scaparro. Io sono il regista che lo riprende, lo rimette in scena. È stata una bella occasione per pensare con Maurizio e anche con Pino Micola a una nuova edizione, diversa, perché chiaramente Giorgio aveva delle sue qualità, delle sue particolarità legate al personaggio, Pino ne ha altre. Ed è venuto fuori una versione molto intimista, molto profonda, diversa da quella di Giorgio, ma altrettanto affascinante, perché la cosa bella che mi è piaciuto, che ho avuto io la fortuna, insomma Giorgio, Pino, due grandissimi attori, grandissimi, mi hanno fatto scoprire ognuno diverse parti di questo imperatore Adriano. Dunque trovo che sia anche questa un'altra, anche per chi ha già visto o l'ha già visto nell'arco degli anni, gli consiglio di tornare a vederlo, perché è proprio una rilettura diversa, sotto un'altra luce. A prescindere da queste due diverse letture di questi due attori, qual è, sì, secondo te, la forza centrale del testo? Io l'ho detto anche quando facciamo la conferenza stampa lì al Teatro Arcobaleno con Pino. Questo testo, ogni volta che lo rimettiamo in scena, a seconda del momento storico che stiamo vivendo, c'è sempre un momento dove noi ci guardiamo, noi che lo mettiamo in scena, Pino, io, Maurizio, e ci diciamo: mamma mia, quanto è attuale. Ed è vero, noi lo rimettiamo in scena nel 2002 dopo il crollo delle Torri Gemelle, e c'erano delle frasi della Yourcenar che sembravano scritte per quel momento drammatico. Stiamo uscendo, speriamo, da questo terrificante periodo della pandemia, e anche qui ci sono delle parole che parlano dello stato d'animo, delle difficoltà dell'essere umano ad affrontare le grandi difficoltà della storia, e sembrano scritte apposta per quello che stiamo vivendo. E credo che questa sia la grande magia dei classici, c'è poco da fare. I classici sono questi libri che tu li puoi leggere o rileggere sempre, come diceva Italo Calvino, e ti parlano miracolosamente del tuo oggi, del momento in cui tu lo vivi. Dunque, ecco, veramente sarebbe quasi da fare una specie di sondaggio al pubblico che esce, quando ha visto lo spettacolo, quando esce, di chiedergli: ma vi è sembrato attuale? Secondo me diranno tutti sì, perché ci sono dei momenti. Ma perché? Perché Memorie di Adriano parla dell'uomo con le sue fragilità, con le sue paure, della vita, della morte, dell'amore, in modo così ampio, così profondo, che noi possiamo adattarlo a tutti i nostri momenti storici che viviamo. Ecco perché, dunque, è un insegnamento di vita, e io lo considero un insegnamento di vita proprio questo testo. Come hai pensato la messa in scena? Guarda, rispetto per esempio, ecco, alle edizioni passate, in questa nuova edizione, con le scenografie di Lorenzo Cutuli e le luci di Maurizio Fabrizi, abbiamo creato una specie di grande camera bianca, biancavorio, come fosse una tenda, una specie di tenda in cui l'imperatore Adriano si è rifugiato per scrivere questa sua lettera a Marco, Marco Aurelio, in cui gli racconta della sua vita. Dunque c'è una, proprio anche nell'impostazione scenica, una volontà di renderlo più intimo. Come se veramente noi sbirciassimo magicamente nell'intimità, negli ultimi giorni, le ultime ore del grande imperatore Adriano. Abbiamo arricchito anche la messa in scena, per esempio, con delle proiezioni che ha che ha disegnato Francesco Lopergolo, che è un bravissimo artista, un videomaker, che non sono solamente invasive ma che creano delle atmosfere, perché non sono proiezioni di cose concrete, sono delle immagini, sono delle sabbie che colorano quasi in modo impercettibile questa camera bianca in cui Adriano si muove, che rendono il tutto ancora più immaginifico. Dunque c'è, diciamo, un aspetto visivo anche più marcato rispetto alle edizioni passate con Giorgio Albertazzi. Lo spettacolo Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar a Roma, Teatro Arcobaleno, dal 29 al 31 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Ferdinando Ceriani. A presto! Grazie, grazie Federico, grazie mille e sono contento sempre di stare con voi. Grazie. Con l'autrice e attrice Marzia Ercolani per presentare il progetto Cronache Marziane a Roma, spazio 18B dal 26 al 31 ottobre 2021. Ben trovata! Ciao Federico, ciao a tutti quanti, ciao a tutte e grazie, grazie Federico, grazie. Qualche giorno per presentare alcune tue cose, raccontaci. Sì, allora io sono intanto molto grata a Massimo Roberto Beato e a Jacopo Bezzi, ossia la compagnia dei Masnadieri, che sono fondamentalmente i fondatori di questo piccolo spazio, con piccolo gioiellino, quel di Garbatella a Roma, nel quale io appunto propongo questo contenitore dal titolo Cronache Marziane, nel quale presento due progetti di drammaturgia contemporanea firmati dalla mia penna e anche diretti dalla mia persona. Allora, dal 26 ottobre al 28 ottobre saremo in scena con Niente, Andantino tragicomico, ed è un atto unico scritto e diretto dalla sottoscritta con Carla Carfagna come interprete, che devo dire è un progetto che ha visto già una prima versione sotto forma di corto teatrale che ha vinto il miglior corto al concorso dei Cortigiani nel 2020, quindi in piena pandemia, in quelle parentesi in cui ci sono state piccole aperture, siamo riusciti a iniziare questo lavoro e abbiamo avuto il piacere di vincere poi questo concorso. E quindi a questo punto noi abbiamo pensato di debuttare allo spazio 18B con la versione definitiva di questo progetto, che è comunque un progetto ironico, leggero, ma comunque con una matrice poetica e in realtà drammatica sotterranea, interpretato devo dire magistralmente da Carla, quindi sono molto felice di lavorare con lei, ed è un progetto che racconta un po' la vita di ognuno di noi, è una settimana di vita raccontata in cui si racconta questa vita contemporanea in cui tutti quanti noi siamo dietro alla corsa quotidiana che ci in qualche modo ingabbia in 1700 doveri e che ci fa perdere un po' il senso, le chiavi della nostra vita, e un po' l'obiettivo è quello di ritrovare le chiavi della nostra vita in realtà scavando nella propria interiorità, nella propria, posso dire, scusate a tutti quanti, possiamo dirlo, nella propria merda. In più c'è anche chiaramente una visione profondamente anche femminile, essendo una protagonista femminile c'è anche tutto un racconto, l'altro livello, un racconto profondamente legato a tutta una serie di tappe femminili. E poi dal 29 ottobre a domenica 31, che invece è pomeridiana, ho scelto di portare un altro debutto, Indisciplinata, sottotitolo Supercalifragilisticazzi, che è in qualche modo un affresco di un percorso sempre femminile tratto dal blog che io scrivo, che è nato 3 anni fa, che si chiama appunto Indisciplinata. È più un teatro di narrazione con delle parentesi poetiche, un racconto al femminile sempre molto ironico ma con chiaramente delle stoccate di ragionamento e di riflessione legate appunto al corpo femminile, all'evoluzione del corpo femminile, al confronto con la società, al confronto con una cultura comunque ancora profondamente patriarcale e macista, e anche all'evoluzione semplicemente personale di una donna, sempre con questa vena un po' appunto indisciplinata e in un percorso che cerca di salvaguardare l'identità personale nei confronti invece della fagocitante cultura imperante che tende a ingabbiare un po' tutti noi e tutte noi. Quindi io vi aspetto in questa doppia veste di regista, autrice e anche nel caso di Indisciplinata interprete, invece nel caso di Niente con Carla Carfagna, vi aspetto allo spazio 18B. Ci lasci anche tutti i riferimenti web per maggiori dettagli? Io sono la cofondatrice di Mueres nel Teatro, che è questa realtà che si occupa di valorizzare la scena femminile, e quindi per tutte le Mueres, le professioniste iscritte a Mueres nel Teatro, si può chiamare lo spazio 18B e ovviamente trovate la pagina Facebook dello spazio 18B, trovate il loro sito, ci sono tutti i contatti, si può chiamare il numero oppure scrivere alla mail della biglietteria per prenotare un biglietto. Nel caso in cui per le professioniste iscritte a Mueres nel Teatro c'è a disposizione un ridotto, e per chi voglia acquistare e vedere entrambi gli spettacoli, idem, cioè si ha la possibilità di avere due ridotti per entrambi gli spettacoli. Quindi abbiamo le pagine appunto Facebook, la pagina Instagram del 18B e ovviamente le pagine Instagram di Atto Nomade, che è la mia compagnia, Marzia Ercolani Atto Nomade Teatro, e sulla pagina di Muores del Teatro. Insomma, ci trovate un po' in varie location web, ecco. Però sicuramente l'obiettivo principale, quella più comoda, è lo spazio 18B. Cronache marziane a Roma, spazio 18B dal 23 al 31 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Marzia Ercolani. A presto! Grazie Federico, grazie, grazie, ciao a tutte e a tutti! Con Manuela, una delle curatrici di Logos, Festa della Parola 2021. Ben trovata. Ben trovato Federico, ben trovate a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Quest'anno abbiamo davvero esagerato e quindi sì, al Parco delle Energie e all'Ex Snia le date partiranno dal 29 ottobre, ma tutto l'evento di Logos di quest'anno ricomprende eventi a partire dal 27 ottobre con, come dire, un'edizione piuttosto singolare del nostro festival per una serie di motivi. Anzitutto, e direi che è cosa importante da sottolineare, la prima con un piede fuori dalla fase acuta della pandemia. L'anno scorso, come è accaduto a numerosi spazi sociali, ci siamo dovuti accontentare di una versione leggera, dematerializzata nel web, più che altro con l'obiettivo di sostenere l'editoria indipendente inginocchiata dalla contrazione delle vendite, insomma lo sappiamo, per la chiusura di librerie, di spazi culturali, derubricate dagli esercizi indispensabili. Ancora, abbiamo scavalato la decade, questa sarà l'11ª edizione di Logos e a dispetto di quel modo di elevare il disordine al sistema che ha contraddistinto da sempre le nostre prassi, ce l'abbiamo fatta, so che non avrei dovuto dirlo, ma è così. E poi, mai come quest'anno, e qui mi riaggancio alla questione del, come dire, del calendario espanso, e chiaramente partendo dall'urgenza di restituire voce agli spazi che da sempre producono cultura sul nostro territorio, il quartiere Pigneto Prenestino e diciamo più estesamente il quinto municipio, i soggetti coinvolti sono numerosi ed eterogenei. Quindi il nuovo Cinema Aquila, la nostra sala di quartiere, il cui sodalizio con la SNIA ormai è di lungo corso, la biblioteca Goffredo Mameli del circuito bibliotecario di Roma Capitale e poi, come dire, un nuovo ingresso nell'offerta culturale del Pigneto che è Kiss Kiss, bar meticcio come amano definirsi loro, con un occhio molto attento alla produzione culturale in lingua araba. E per quanto riguarda quello che appunto per noi è stato sempre un elemento centrale, quindi la scelta di un lemma intorno a cui svolgere l'intero programma, la differenza più eclatante proprio durante l'edizione 2021, per la prima volta è stata quello di non scegliere, ma di tracimare, per riprenderci tutte le parole di cui il silenzio degli scorsi mesi ci ha privato. E prova ne è stata che anche durante le riunioni organizzative per la prima volta abbiamo trovato davvero insufficiente cercare di contenere, comprendere il tempo presente con un unico termine. Quindi ci siamo concordemente dichiarati senza parole e questa cosa la suggerisce in maniera molto suggestiva l'immagine che ci ha donato Claudia Croma Romagnoli per il manifesto, quindi andate sui nostri social, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito www.logosfest.org e levatevi la curiosità di vederla perché è bellissima, oppure fate una passeggiata in quartiere perché è già completamente spezzato. Anche quest'anno multidisciplinare, raccontaci un po' come si articolerà. Ah, mamma mia, un sacco di cose. Allora, infatti entrare nel dettaglio della programmazione, devo dire, in modo proteiforme, sta continuando ad accogliere in queste ore novità e siamo a meno di una settimana dall'apertura. Certo, tenete presente che il rischio di lasciare fuori dalla discussione, dalla chiacchierata, alcuni appuntamenti, perdonatemi, ma ovviamente ci sarà tutto pubblicato online. Allora, le proposte cinematografiche. Per esempio, spazieremo dal documentario al reportage al film su sceneggiatura. Tra i titoli avremo la prima romana di The End Will Be Spectacular sui 100 giorni di assedio turco di Sur, il centro della città di Ardarkir. Questo film, che è stato licenziato nel 2020 in lingua curda e solo in lingua curda in Italia grazie al catalogo di OpenDTP Distribuzione dal Basso, che ringraziamo perché ci hanno sempre sostenuto. E quindi avremo l'opportunità di una visione con sottotitoli per non perdere neanche uno scambio, e con noi da remoto parteciperà anche il regista Ersin Selik, e il tutto insieme a Rete Kurdistan Italia, il Centro Socioculturale Ararat e Wiki Onlus. Avremo anche un altro appuntamento di grande rango, il vincitore dell'Emmy Documentary Award di quest'anno nella categoria Newscast, Desperate Journey. Ed è a firma di un compagno e grandissimo amico del nostro centro sociale, ex Esmia. E quella di Logos sarà l'anteprima italiana. Poi, per chiudere con questo breve e incompleto excursus sul cinema e passare ad altro, venerdì 28 accoglieremo la prima di Freaks Out di Gabriele Mainetti, film del 2021 in concorso all'ultima Biennale Cinema, e con noi avremo uno dei protagonisti, Giancarlo Mattini, a chiacchierare dopo la proiezione. Mi raccomando, il biglietto andrà prenotato, perché i posti, chiaramente per assolvere a tutta la disciplina per fare la prevenzione del Covid, sono stati contingentati. Quindi troverete sul nostro sito www.logosfest.org e sui nostri social, in particolare su Facebook, il link per la prenotazione. Poi passiamo agli incontri ricchissimi, numerosi, incentrati su ambiente e sostenibilità delle pratiche. Tra l'altro ricordo una congiuntura specialissima: il 30 al 31 ottobre sappiamo che si terrà a Roma il G20 di vertice. Buongiorno. E noi come... Pronto? Sì. Ok, perdonami. E noi come centro sociale ospiteremo parte del Climate Camp. E questa presenza si incrocerà sempre nei nostri spazi con quelli della Gira Zapatista, incontrando le delegazioni e il gruppo del Consiglio Nazionale Indigeno. Quindi, diciamo, avremo una densità incredibile di partecipazione, di scambio di pratiche, e in tutto questo contesto ospiteremo una giovanissima attivista romana nota per le lotte contro le agromafie e il caporalato, Diletta Bellotti. Molti la conoscono come autrice del blog Pomodori Rosso Sangue, e presenterà da noi il libro che è uscito per i tipi della Diagostini, The Rebel Toolkit, Guida alla tua rivoluzione. Poi, restando in tema libri, avremo da raccontarci con una serie di affezionate, alcune invece nuove presenze editoriali, le ultime fatiche di Wolf Bukowski, della redazione di Zapruder, quella di Officina Primo Maggio, Napoli Monitor, finalmente la pubblicazione a cura del Centro di Documentazione Territoriale Maria Baccante, grazie alle edizioni Red Star Press, di Pigneto 44 Ribelli, cioè il frutto di una ricerca di anni attraverso gli archivi dell'ex Snia Viscosa e attraverso la raccolta di testimonianze orali di chi sul territorio ancora ha memoria diretta e indiretta di quello che fu il momento resistenziale all'interno del nostro quartiere, e che, come dire, da tanto tempo finalmente attendevamo di come dire, poter portare a Logos come momento per certi versi molto nostro. Le case editrici saranno, come dicevo, alcune vecchie presenze, altre nuove freschissime, quindi Agenzia X, Allegre, Tamu, Di Edizioni, Gozzellas, Opil, Galeone, Red Star Press, appunto, Momo, Kairos, Stampa Alternativa, L'Ortica, e sicuramente sto dimenticando qualcuno. Poi ovviamente non manca e non mancherà il contributo musicale e delle arti performative. Avremo gruppi sperimentali e stortissimi, Crura, Black Amada, Fug, che vengono, come dire, anche un po' da quell'esperienza ricchissima dello studio di registrazione di Valeria De Mastrango al Branca, quindi insomma veramente nuova proposta, ma con, come dire, un cuore che batte da tanto all'interno della scena romana. E poi, e questo devo dire ci riempie di aspettativa, un monumentale recital dedicato a Sant'Elo Carnicola, con i contributi di Anime Noctis, Pasquale Abatangelo, La Compagna, Delia Bellanova, Pino Capucci, Ascania Celestini, Gang, chi altri? Elio Germano, Valerio Mastandrea, Jasmine Trinca, Ozulù, che verrà espressamente da Napoli per leggere tante, e Militantà. E poi, quanto a presenza d'eccezione, questo ci tengo davvero a dirlo così come è vero, abbiamo avuto conferma da pochissime ore, sarà la presenza di Mimmo Lucano. Mimmo Lucano che ci ha commosso perché ha accettato il nostro invito di prendere parte al festival, intervenendo chiaramente ad un incontro tematico su frontiere, migrazioni, accoglienza, e chiaramente sarà anche l'occasione per una raccolta fondi per sostenere le spese legali di Mimmo, che come sappiamo è uscito ingiustamente colpevole dal processo di primo grado intentato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Poi non dimentichiamo la nostra piccola ciurma, quindi attività per le scuole e per l'infanzia al nostro lago di quartiere, il lago Bullicante, dichiarato, come i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa sanno, monumento naturale, con laboratori e lezioni di professori d'eccezione. Ad esempio avremo uno dei fan più scatenati delle azioni a sostegno del lago, che è l'etologo e accademico dei Lincei Enrico Alleva. E cosa dimentico? Come dicevo, forse troppe cose. Diciamo che chiuderemo il calendario, che insomma da questo piccolo sample risulterà molto ricco, con un incontro quanto mai necessario, dal titolo Curare la piaga, metodologia di lotta alla sindemia, a cui interverranno Laura Corradi, Andrea Capocci dal Manifesto e Riccardo Mastini. E poi mostre, fumetto, fotografie, arti plastiche, e Federico, a questo punto temo di avere davvero lasciato fuori diverse cose, ma sarebbe inevitabile immaginare il contrario. Ricordo solo le informazioni essenziali: dal 27 ottobre al 1 novembre al CSOA ex Snia Viscosa, via Prenestina 173, al Parco delle Energie, al Lago Bullicante, alla Biblioteca Mameli, il Nuovo Cinema Aquila e a Kif Kif, Logos, Festa della Parola 2021. Programma aggiornato su www.logosfest.org e su www.facebook.com/logosfest.org. E come per il nostro festival di quest'anno, adesso sì che sono davvero rimasto senza parole. Un saluto e un ringraziamento a Manuela, una delle curatrici. A presto! A prestissimo, ci vediamo tra qualche giorno. Grazie Federico, grazie Radio Onda Rossa. Con Lucrezia Coletti, curatrice del laboratorio teatrale Zappattori, che ha residenza all'Argo Studio. Lucrezia, ben trovata. Beh, grazie, ciao Federico e grazie per questa intervista. Storicamente avevate cominciato a muovervi all'interno del cinema America occupato, giusto? Esattamente, allora il progetto Zappattori è ormai in auge da diversi anni, quando noi eravamo dei pupi praticamente appena usciti dal liceo, e è un progetto che si muove nell'ambiente romano prendendo parte anche a iniziative sociali come ad esempio era appunto l'occupazione del cinema America. E da lì è nato una bozza di laboratorio che era seguito da due membri degli Zappattori, che erano Edoardo Massa e Martina Malfitana, che si occupavano di avvicinare i giovani al teatro, no? Cioè, quindi l'obiettivo era quello di dimostrare che il teatro non fosse una cosa per anziani, ma che fosse una cosa viva e in continuo movimento. Dopodiché Cinema America, come tutti sappiamo, è stato sgomberato e il Teatro Argot ci ha accolti sotto la sua ala dicendoci: venite perché ci piace il vostro progetto, siete giovani, siete carichi e quindi non vi preoccupate, da oggi avete una nuova casa. E da lì i zappatori si sono spostati a Casa Argot. Nel frattempo io... Di metri. Esatto, di circa 25 metri. Nel frattempo io ho avuto la malsana idea di decidere di diventare un'attrice e quindi mi sono messa a studiare, mi sono diplomata, ho fatto un sacco di corsi e alla fine ho preso in eredità quello che è stato il lavoro precedentemente fatto da Edoardo e Martina, dagli zappatori. E quindi ormai sono 6 anni che siamo all'Argot. Il laboratorio nel frattempo è cresciuto ed è diventato un concorso vero e proprio. Tra l'altro, tra il Cinema America e l'Argot c'è stata anche tutta una parentesi a Radio Onda Rossa in cui avete portato tanti dei vostri corsi teatrali. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo partecipato a molte iniziative insieme. Ci racconti un po' come funziona il laboratorio? Si svolge tutte le domeniche dalle 20.30 alle 23.30. 3 ore potrebbero sembrare tante, tutti si spaventano, no? Quando dico 3 ore, in realtà poi volano molto più velocemente di quanto non possa sembrare. All'interno di queste 3 ore ci occupiamo di trattare vari argomenti, quindi si va dall'interpretazione all'improvvisazione, allo studio della voce, dei contenuti. Ovviamente è aperto a tutti, l'intento è quello di creare uno spazio protetto all'interno del quale potersi esprimere. Non c'è limite di età, anche perché è molto interessante spesso vedere anche delle generazioni a confronto, quindi abbiamo da una ragazza che ha 20 anni fino a anche i 60 anni, quindi veramente non c'è proprio alcun problema di sorta. Ovviamente, su quali testi lavorate? Dipende in realtà dal gruppo che si forma, perché molto spesso è capitato di prendere dei testi già scritti e riadattati, oppure a volte è capitato anche di fare un progetto di scrittura creativa insieme, quindi quello dipende molto dal tipo di gruppo che si viene a creare. Purtroppo prima del Covid stavamo mettendo in scena un riadattamento di Momo, di Michael Ende, che purtroppo non ha mai visto le scene perché mentre eravamo in prova, purtroppo, come tutti sappiamo, è stato chiuso tutto e eccoci qua. E quindi da quel momento ancora stiamo cercando di far ripartire le cose. Alla fine del corso c'è uno spettacolo? Sì, solitamente sì, anzi possiamo dire che ci sarà dal momento che è recentemente arrivata la buona notizia della riapertura con capienza al 100% dei teatri e dei cinema, quindi possiamo dire con certezza che ci sarà, anche se non sappiamo ancora precisamente le date, perché è ancora tutto in divenire, però sì, assolutamente io mi batterò affinché si possa mettere in scena uno spettacolo, perché comunque fa parte anche del senso di tutto, no? È necessario che ci sia uno spazio per mettersi comunque alla prova e sperimentare tutto ciò che si è imparato durante l'anno. Tant'è che infatti il corso è diviso in 2 fasi, una prima fase di preparazione più prettamente tecnica e poi c'è una seconda fase che è volta alla preparazione della messa in scena. Principalmente io mi occupo delle lezioni e specialmente durante la seconda fase ci sarà anche il prezioso supporto di Edoardo che verrà a darmi una mano nella messa in scena finale. Per tutte le informazioni ci dai riferimenti web? Sulla pagina Facebook degli zappatori o cercare proprio noi singolarmente, quindi io sono Lucrezia Coletti, oppure andare direttamente sulla pagina del Teatro Argot e lì trovate tutte le informazioni relative al corso. Il laboratorio teatrale Zappatori in residenza all'Argo Studio a Trastevere a Roma. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Lucrezia Coletti. A grazie presto. A te Federico, grazie a tutti. Eccoci all'agenda della settimana teatrale, ma non solo, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio, settimana ricca di appuntamenti, andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Dunque andremo questa settimana al Teatro Marconi, beh ci andiamo poco, in realtà lo ricordiamo raramente, ma in effetti accadono cose ed è bene parlarne. Il 28 e 29 ottobre al Teatro Marconi con la regia di Giorgio Filanti ci sarà Le avventure di Pinocchio, si tratta di un lavoro appunto dedicato al capolavoro del maestro Collodi, è un lavoro attoriale sul corpo come portatore di una creatività, di una bellezza che viene rappresentata attraverso questa storia del burattino che tutti ben conosciamo, e ci sarà una contaminazione di vari effetti teatrali, non soltanto il teatro performativo, ma appunto la danza, il canto, l'immagine, tutto per narrare quella che è la vicenda del burattino Pinocchio. Saremo appunto al Teatro Marconi 28 e 29 di ottobre. Mi sposto al Teatro Basilica, perché vado a ricordare che questi giorni, 28-31 ottobre, torna a Roma uno spettacolo di Maurizio Rippa, Piccoli funerali. Si tratta di un lavoro che sarà in scena al Teatro Basilica, una partitura drammaturgica e musicale che alterna un piccolo rito funebre ad un brano dedicato a chi se n'è andato. È un atto d'amore, un regalo, io l'ho visto ed è davvero un bellissimo lavoro, un gesto che ha a che vedere con la memoria, ma non con una memoria nostalgica, per affrontare poi il dolore che sempre è la partenza di chi se ne va e non ci torna indietro. Quindi 28-31 ottobre, Teatro Basilica. Te lo confermo, Simone, io lo vidi, pensa, a Stromboli, in un cimitero abbandonato di fronte al mare. È stata un'esperienza piuttosto forte. Beh sì, guarda, è qualcosa che resta davvero addosso. E dunque, vado a ricordare anche che in questi giorni sta partendo anche la stagione del Centro Culturale Artemia. Siamo zona Portuense, Forlanini, via Mirko e Cucchini 38, ci sono insomma un bel po' di lavori che sono in programma, e sul sito del Centro Culturale Artemia.org è bene andare a ricordare, andare a vedere insomma tutti gli appuntamenti dell'anno. E lo ricordiamo anche perché insomma in questo lavoro Radio Onda Rossa è partner, come appunto recita qui la nostra locandina. E quindi sul sito appunto del Centro Culturale Artemia, per il resto degli spettacoli questa settimana non ci sono lavori, e si parte direttamente il 6 e 7 novembre con Risate in Valigia, ma appunto ne parleremo volta per volta. Per ciò che riguarda invece il resto degli spettacoli, beh, ti porto anche al Teatro Arcobaleno 29-31 ottobre con Memorie di Adriano, la regia di Maurizio Scaparro, ricordiamo la storica edizione di Giorgio Albertazzi, il capolavoro di Margaret Yourcenar, che porta diciamo questo capolavoro della letteratura sul grande imperatore dell'impero romano sulla scena, questo nuovo allestimento da angolazioni nuove, questa storia appunto sull'imperatore Adriano. Quindi 29-31 ottobre, Teatro Arcobaleno, Le Memorie di Adriano. Spazio Rossellini, 28 ottobre, che è giovedì, va in scena il primo dei due spettacoli dedicati all'ambiente, si chiama Monday, ed è uno spettacolo di Dynamis, che viene realizzato in collaborazione con Enea. Si tratta di un lavoro che anticipa quello che ci sarà appunto dal 4 al 6 novembre, il grande giorno, mentre Monday dal 28 al 31 ottobre, attenzione, ore 19, vedrà in scena due performer, Francesco Turbatti e Marta Vitalini. È una riflessione sulle contraddizioni del dibattito ambientale, che in scena esplodono con retorica nel dialogo tra due mediocri artisti contemporanei. Si presentano alla platea per raccontare un progetto rivoluzionario e una collaborazione inedita. Scienza e teatro per la prima volta insieme in un palco mai visto prima, in uno spettacolo mai visto prima, che cambierà le sorti del dibattito mondiale. Ecco, è molto interessante in realtà, in un dibattito in cui tutti quanti siamo d'accordo ma nessuno poi fa realmente nulla per cambiare le cose che restano abbastanza uguali, andare a identificare, a scardinare un po' quella che è la retorica del dibattito stesso. Monday 28-31 ottobre, spazio Rossellini. Andiamo anche al Teatro India, perché Dal 27 al 31 ottobre, con la regia di Roberto Gandini, ci sarà lo spettacolo La Notte di Capodanno, con la collaborazione alla drammaturgia di Roberto Scarpetti. Ecco qui, si tratta di un lavoro, ricordiamo Roberto Gandini è il regista che cura anche il laboratorio teatrale integrato Piero Gabrielli, ed è un lavoro che si connota nelle ore tra il 31 dicembre e il primo giorno dell'anno successivo. Un gruppo di infermieri che fanno la notte nel reparto di medicina generale di un ospedale di provincia. Sembra essere una notte calma, ma si trasforma in qualcosa di frenetico, dove i destini dei pazienti e degli infermieri si mischiano e si confondono. Quindi piuttosto rocambolesco quello che accadrà appunto al Teatro di Roma, Teatro India, e tutto si inserisce all'interno di un progetto che il Teatro di Roma, insieme con la Federazione Nazionale degli Infermieri, FNOPI, ha deciso di avviare. Il progetto si chiama L'Arte di Curare e Raccontare, per la scrittura e la messa in scena di una pièce teatrale sulla figura dell'infermiere. Questo è il progetto triennale, così dedicato a Roberto Gandini, e quindi lo vedremo in scena finalmente il 27 e 31 ottobre al Teatro India. Andiamo anche poi al Teatro Spazio 18B, che riparte con una serie di spettacoli, e questa settimana sarà diciamo una settimana interamente dedicata a Marzia Ercolani, e il contenitore è quello di Cronache Marziane, appunto a cura di Marzia Ercolani, che 26-28 ottobre porta in scena con l'interpretazione di Carla Carfagna un suo atto unico dal titolo Niente, andantino tragicomico, mentre invece sarà protagonista dal 29 al 31 ottobre di Indisciplinata, supercalifragilisticazzi, un atto unico brillante, questo è ciò che ci dice la scheda, io così lo leggo. E ricordo che insomma la stagione del Teatro Spazio 18B è in ogni caso tenuta dalla compagnia dei Masnadieri, che appunto curerà l'intera stagione. Andiamo avanti e andiamo al mi è sfuggito di mano, eccolo qui, al Teatro Ambra Iovinelli. Questa, attenzione, perché è uno spettacolo scritto e diretto da Luana Rondinelli, una voce abbastanza nuova del teatro nazionale, ancora non totalmente affermata, ma di sicuro talento. Io ho avuto modo di vederla fin dai suoi primi passi. Gerico, Innocenza Rosa racconta con grazia ed ironia una storia, come tante, di transizione, il passaggio da Vincenzo a Innocenza Rosa, segnato da incomprensioni, pregiudizi, persecuzioni, rabbia e infine maturazione. In scena ci sarà un'attrice importante che affronta questo monologo, che è Valeria Solarino, dal 26 al 31 ottobre, Teatro Ambra Iovinelli. Ancora andiamo invece avanti per il Teatro di Roma, ancora un lavoro, ancora Teatro India, 26-31 ottobre, anteprima di stagione del Teatro India. Attenzione, la compagnia Non Nova con la drammaturgia e la messa in scena di Tia Menard e Jean-Luc Bojot. Uno spettacolo che va in scena appunto al Teatro India, ed è riporta l'artista francese Tia Menard con Maison Mère in scena a Roma. C'era stato già lo scorso anno uno spettacolo molto importante che aveva fatto molto, molto discutere, e molto delicato tuttavia, e questo lavoro invece risponde al tema proposto dalla manifestazione Imparare da Atene per un parlamento del corpo. Lo spettacolo mette dunque in scena, in discussione, anzi oltre che in scena, l'identità di una Europa retta da equilibri fragili. Sarà l'unica interprete in scena a fiammenare, costruisce una gigantesca casa di cartone con qualche metro di nastro adesivo, si muove come una guerriera e affronta la battaglia. Non c'è sangue, c'è solo sudore, c'è tensione tra l'architettura titanica che lei costruisce e lei stessa che costruisce. Chi è? Come la possiamo considerare, una mortale o una figura mitologica? Questo è quello che dobbiamo andare a scoprire con Tia Menard dal 26 al 31 ottobre, ossia da questa sera fino al 31 ottobre, al Teatro India con Maison Mère. Per ciò che riguarda invece altri lavori, ecco, andiamo anche, così concludiamo lo Teatro di Roma, perché il 31 ottobre al Teatro Torlonia ci sarà un lavoro molto carino con una sonata per tubi arie di musica classica per strumenti inconsueti, insieme a Ferdinando D'Andria, Maila Sparapani, Marilu D'Andria, appunto, ci sarà, ricordiamo, l'aiuto alla creazione di Federico Cibin e Marta Dalla Via. E si tratta di un lavoro dedicato agli under 14, sarà in scena per due orari, alle 17 e alle 19, quindi il 31 ottobre, da non dimenticare. Per ciò che riguarda Roma Europa Festival, direi, ecco, di andare a vedere cosa c'è a Roma Europa questa settimana, così per chiudere, saranno molti lavori, soprattutto dedicati alla danza. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. 26, 27, questa sera e domani, di ottobre, ci sarà in scena Igra, questo spettacolo di Corsia, è una pièce coreutica ambientata in un campo da tennis, pensata come scrittura coreografica in dialogo tra presente e passato. È un lavoro con cui la compagnia si torna a confrontare con i grandi classici della danza per ricollocarli al tempo presente. Questo è ciò che appunto andremo a vedere, però non ho detto effettivamente il grande classico, è quello che tutti conoscono come show di Nijinsky, per appunto allargare, no, questa, la visione di questo lavoro in un ambito totalmente contemporaneo. Quindi appunto Igra questa sera e domani, il luogo dove andremo a vedere il Mattatoio, Teatro 1. Per ciò che riguarda invece un altro lavoro, si tratta in questo caso di uno spettacolo di nuovo circo, Baro Devel, con Mazut, 27-31 ottobre al Teatro Bachel. È la compagnia che mostra l'acrobazia, il nuovo circo, come ciò che può assumere le sembianze di un oggetto misterioso e anche profondamente poetico, un universo di materia, di polvere, di musica, frammenti di vita. Questo è quello che andremo a vedere al Teatro Vascello, e ringraziamo sempre Roma Europa Festival per portare il nuovo circo come nessuno fa a Roma, soltanto Roma Europa ogni tanto riesce a farlo, ed è invece sempre qualcosa di molto molto affascinante. Andiamo ancora avanti, perché al Mattatoio il 28 ottobre, questa volta al Teatro 2, è la volta per andare a vedere Bangarang, Giulia Cristiani e Scomodo, un discorso aperto a tutti, iniziato tra la comunità di Scomodo e l'artista Giulia Cristiani nel luglio 2021, ispirato al grido di Peter Pan e i bimbi sperduti nel film Hook, Capitano Uncino. È un grido che arriva dopo quasi due anni di pandemia, di isolamento forzato, e cerca di uscire fuori. Una produzione inedita per Roma Europa Festival, un progetto speciale, Bangarang, che si è sviluppato per diversi mesi attorno a un laboratorio di scrittura e di idee, e accogliendo piccoli e intimi gesti che si misurano con il palcoscenico della protesta, alternati a ritmi densi di energia e sfiancamento. 28 ottobre, Mattatoio, ore 19, Bangarang. Ancora Roma Europa Festival, per andare a vedere gli ultimi lavori, DNA, punti coreografici, Dancing Days, Stefania Tanzini con My Body, a Mattatoio Teatro 1 il 30 ottobre, un lavoro che va a completare lo studio vincitore appunto di DNA punti coreografici, mentre invece ancora per Dancing Days Airwaves, Iris Karajan con Unauthorized, che va a portare la coreografa greca, scusate il bisticcio, sul palco del Mattatoio, nutrita dai video di musica pop, le clip YouTube di Muhammad Ali e John McEnroe. Questo è quello che andremo a vedere, osservare da vicino il modo con cui il corpo viene abitato e rappresentato nello sport, nella cultura pop, è per la coreografa Iris Karajan un tentativo di vedere e contestualizzarlo, di contestualizzare il corpo della fisicità del contemporaneo come un lavoro di collage live di mutazioni fisiche in uno spazio asettico. Questo è il 30 ottobre per Dancing Days al Mattatoio Teatro 2. Ultimi due lavori che andiamo a ricordare velocemente: 28-30 ottobre Alexander Zeldin con Love al Teatro Argentina, per Roma Europa Festival. Qui in questo caso è il teatro che si prende il palco del Teatro Argentina, tre repliche per questo lavoro che mette in scena un centro di accoglienza che offre una sistemazione poco prima di Natale a un gruppo di individui, un uomo, la sua anziana madre, una donna in dolciottese e il suo compagno, due migranti, stanno insieme, costretti nello stesso spazio abitativo per un tempo indefinito. E cosa accadrà tra di loro lo andremo a vedere, e sarà molto importante perché è uno spettacolo che ha a che vedere proprio con uno dei temi importanti, molto molto contemporanei di questo nostro tempo, ed è appunto questo Love di Alexander Zeldin, un regista teatrale e cinematografico e scrittore inglese che ha lavorato molto in tutto il mondo e qui ci riporta la sua esperienza, e quindi lavoro da non perdere, così come Dorothée Mugnanesa con Mai all'Auditorium Parco della Musica 29 e 30 ottobre, un lavoro che porta la regista originaria del Ruanda, che è di nazionalità britannica ma risiede a Marsiglia, a celebrare la potenza e la forza femminile, riunendo sulla scena sei donne impegnate e provenienti da differenti zone del mondo. Saranno voci afroamericane, haitiane, danesi, inglesi o brasiliane, storie di cantanti e danzatrici che si uniscono per costruire un unico coro, quello delle grandi donne di questo nostro tempo. 29 e 30 ottobre, Auditorium Parco della Musica per Dorothée Mugnanesa. E questo è tutto. Ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.